Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ed eccoci su Radio Wombat per fare qualche riflessione sul libro appena letto, L'evasione impossibile di Sant'Enotar Nicola. Vi ricordiamo che siamo appunto su Radio Wombat, che è ascoltabile su AM, modulazione di frequenza sui 1359 kHz, oppure in streaming su www.radiowombat.net. L'evasione impossibile è il romanzo autobiografico di Sant'Enotar Nicola. Viene pubblicato da Feltrinelli nel 1972. Sante nasce nel 1938 in Puglia. Nel 1953 emigra prima a Torino e poi a Milano. A Torino vive in un quartiere operaio della periferia torinese, la Barriera di Milano. Negli anni 50 incontra Pietro Cavallero, con cui costituisce il gruppo di rapinatori passato alla storia come Banda Cavallero, appunto. Una banda particolare che fa la prima rapina per procurarsi armi e finanziare le guerriglie e le rivoluzioni nel Terzo Mondo. La Banda Cavallero era una banda di rapinatori di banche che aveva evitato qualsiasi rapporto con la malavita, rendendo così inutile ogni sforzo degli investigatori per catturarli. Così divennero una leggenda che aveva le sue origini nel mondo del comunismo torinese, delle boite e delle officine del boom economico del dopoguerra. Nell'ottobre 1967 Sant'Enotar Nicola e Pietro Cavallero vengono arrestati e condannati all'ergastolo. Per Sante è l'inizio di una nuova battaglia. Partecipò alla stagione delle rivolte che segnarono la storia carceraria italiana, insieme agli altri detenuti. Nel novembre del 1976, con quattro detenuti, tenta di evadere dal carcere di Favignana, attraverso un tunnel sotterraneo che venne però scoperto. Nel 1995 gli fu concessa la semilibertà e durante il giorno per 5 anni gestì il pub Mutenie a Bologna, dove si stabilì dal 2000 quando, giunto il fine pena, fu finalmente libero. È durante la carcerazione che Sante scrive L'evasione impossibile e varie raccolte di poesie. Una di queste poesie, come La nostalgia e la memoria, verrà poi musicata dagli Assalti frontali. La ascoltiamo. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fucic, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che correva compatta da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta Viacunio, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il Crumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara. Durante il processo, Sante lesse una dichiarazione. Vi leggo alcuni stralci. Vi chiedo l'ergastolo, non per i morti che non ho ucciso, non per i reati in se stessi, ma perché io sono vostro nemico, perché io sono vostro prigioniero, perché voi rappresentate il sistema capitalistico che è nemico mortale del genere umano e perché al nemico vincitore non si chiede giustizia o pietà, ma si continua a combatterlo anche dal fondo delle sue putrescenti galere. Se io ho rapinato banche, se sono morti degli uomini non per mano o volontà mia, non è certamente davanti a una classe che si fonda sulla rapina, sulla frode, sulla violenza più sanguinosa che debbo giustificarmi. Ho davanti a me una polizia assassina, ho davanti a me una legge fascista. Ho sbagliato, è innegabile. Come è immaginabile il rammarico che provo per i morti, vittime ignare di una lotta continua e inarrestabile che non certamente noi, piccoli uomini sfruttati, abbiamo voluto. Ma il mio rammarico più forte è per quei vivi che non capiscono o non vogliono capire il significato più vero e profondo della nostra rivolta. Lo sfruttamento, la miseria, la violenza, il crimine, l'oppressione non sono opera nostra, ma il risultato inevitabile di un sistema ingiusto fondato sulla divisione tra gli uomini. Ora, quando noi, un piccolo gruppo, ci ribelliamo in questo stato di cose, anche se la nostra è una ribellione soggettiva, individualistica, siamo sempre dalla parte giusta, nonostante gli errori del metodo. Siamo sempre dalla parte delle classi sfruttate, degli oppressi, dei poveri. Il nostro unico rimpianto è quello di non aver saputo o potuto mirare in alto e di esserci limitati a un solo tipo di attività. Nel venire a contatto con il mondo carcerario, con la sua quantità di orrori e di violenze e nel rivedere criticamente gli errori compiuti e nel conoscere da vicino la lotta eroica dei detenuti politici ho potuto crescere, maturare, arricchire la mia coscienza rivoluzionaria. Ciò mi rende sereno nel cammino verso l'ergastolo. Voi cercherete di farci morire in galera, delegando gli uomini dell'apparato ad accelerare le cose. Altri verranno, migliori di noi, fatti esperti dei nostri errori, a raccogliere l'aspetto positivo della nostra esperienza. La lotta contro di voi continua, fuori e dentro il carcere. Voi continuerete ad imprigionare tutti coloro che vi danno fastidio o sono un pericolo per il vostro disordine costituito. Voi getterete in carcere pacifisti, gli obiettori di coscienza. Noi li aiuteremo a superare le asprezze e le privazioni di questa vita e di questo ambiente. I detenuti comuni, gli sbandati, i ribelli, sono speranza. Noi ve li ritorneremo con una coscienza rivoluzionaria. Questo è il mio impegno, questo è il vostro errore. Voi credete di aver vinto e invece anche con me avete già perso la battaglia. Voi condannerete me con spietata durezza, come condannerete chiunque si ribella alla vostra oppressione. Ma verrà il giorno in cui io, insieme al popolo, sarò un vostro accusatore. Sante Notar Nicola purtroppo è morto il 22 marzo 2021. Al suo funerale i compagni intonarono Figli dell'Officina. Ascoltiamo insieme la registrazione. Figli della terra, già loro fa vicina della più giusta guerra, la guerra sull'Italia, guerra si fa con te, innalzeremo al vento bandiere rosse e nere. Avanti siamo ribelli, fieri vendicatori, un mondo di fratelli, in mezzo all'amore, dai, dai, dai, giù scendiamo in fretta, con queste mandai calli, noi la faremo vendetta del popolo gli arditi. Noi siamo i fiori più puri, fiori non appassiti dal lezzo dei tuguri. Avanti siamo ribelli, fieri vendicatori, un mondo di fratelli, liberi dal lavoro. Noi non temiamo la morte, per la vendicatrice non schiuderà le porte a un'era più felice. Ai morti ci stringiamo, e senza impallidire per l'anarchia pugniamo, o vincere o morire. Avanti siamo ribelli, e rivendicator, un mondo di fratelli, liberi dal lavoro. Assente! Sante è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Sante è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Pio Baldelli, nella prefazione alla prima edizione del libro, scrive: a 20 anni dunque Sante Notar Nicola diventa bandito e ne entra nella cronaca nera. Rapine alle banche, sparatorie, morti. In questa guerra privata Notar Nicola guadagnava 200.000 lire al mese per fare il bandito ed era sempre convinto che i suoi capi impiegassero il bottino per acquistare armi e aiutare i movimenti di liberazione dei paesi coloniali o per predisporre una serie di basi per la guerriglia italiana. Solo poche ore prima della cattura Cavallero gli confessa che il denaro era stato sperperato. Piombato nel carcere, Notar Nicola matura una revisione politica del suo passato, lo svilimento del legame con le masse, l'iniziativa privata senza via d'uscita, eccetera. Entra poi in contatto con le avanguardie politiche in galera per la repressione e inizia a lavorare per la creazione di un movimento politico nelle carceri. E ora sentiamoci un pezzo di un concerto, Gli Assalti Frontali, tenutasi a Bologna con la partecipazione dello stesso Sante Notar Nicola. Assalti frontali! Assalti! A pugno chiuso a Bologna! È particolare perché oggi tra di noi c'è Sante Notar Nicola, che invitiamo qua per favore a venire. Vai, Sante! Sante! Sante! Sante Notar Nicola alle 11 deve ritornare dentro, come tutte le sere. Quelle sere alle 9, oggi gli avevamo un permesso di 2 ore. Felice di essere qui con questi compagni, per chi non lo sapesse sono attualmente un semilibero, quindi ho fatto una lunga carcerazione e ai miei tempi anch'io, come dice una loro canzone, sono partito dal villaggio, sono partito, ho fatto un percorso, ho fatto delle cose. E poi sono ritornato al villaggio e non sono tornato a mani vuote, no, questo no, però sono tornato con una certa amarezza, se mi è permesso, no? Con dei problemi che uno si porta dentro e che quindi rodono. E cioè, da una parte c'è stata una certa ricchezza, io non voglio togliervi il tempo alla musica, alle cose, per la carità, non voglio star lì a menardala molto, no? Però questa cosa bisogna che ve la dica. Il fatto di essere tornato dopo 21 anni al villaggio e aver lasciato dietro di me alcune persone molto care, alcuni compagni ancora nelle prigioni, per me è sempre un motivo di angoscia, se volete, no? E quindi io mi riterrò veramente felice nel tornare nel villaggio quando intorno a me ci saranno anche Prospero Gallinari, quando ci sarà Renato Arroni, quando ci sarà Bruno Pegetti, quando ci saranno con me, qui con voi, tutti i comunisti, fino a tutti, ma anche con quelli per cui si ha dei casini, eccetera, alcuni di voi ne sanno queste cose, le lacerazioni, eccetera, tutti quanti, allora questo sarà un villaggio in cui varrà la pena di ricominciare, ecco, tutto questo. Io non ho altro da dire. Grazie. Libertà per i prigionieri politici e per i prigionieri sociali. Non facciamoli sentire soli, che non sono soli, i compagni che stanno dentro. Elio Bruno entro intorno, tutta l'aula si zittisce, io rispondo prima piano, monosillabi, mi sento rilassato. All'improvviso rilassato, mentre spiega quel PM, spiega il giudice la storia. Arrestato! Arrestato per la vita, tutto credesse sette, tanto passo, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice il spiego, è colpa vostra! È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire, uscire di prigione, sì, ma non è obbligatorio. Troppo! Troppo da difendere! Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Tenti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri e vetri divisori. Vetri infatti, vetriosi. E la posta che è sottratta, censurata, poi la fame. Fuori alla sinara è il compagno che va via via con la testa. Doveva rafforzare pugni chiusi nei processi, ritirate tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti giorni invece se ne vanno mesi, anni e silenzi. Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano, parlottano tra loro, si e poi dicono: lei uscirà, lei uscirà, sua moglie, il ragazzo da Bologna sta arrivando tra 6 ore, ancora, 6 ore sta riuscito, 6 ore per prepararmi foto, lettere, la sacca di saluti ai compagni di 21, anni fatti tutti in un caso d'ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sta riuscito, lei uscirà, vertigine, cuore leggero, mi sono avvenuto a petto, tante cose alle mie spalle, i compagni, troppi, ancora imprigionati, mai, ti scorderò. Mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati, rispettati, liberati! Assorbiano da Nicola. Liberati! Nel 1968 esce un film che si concentra sulla rapina all'agenzia 11 del Banco di Napoli in Largo Zandonai, l'ultima rapina della banda Cavallero, in cui partecipa Santeno Tarnicola nell'autunno del 67. La regia è di Carlo Lizzani e nei cast ci sono Thomas Milian, Gian Maria Volontè e Don Bacchi che interpretano Tarnicola. Carla Gravina, Agostina Belli. È un instant movie, infatti esce poco dopo la tragica rapina, dopo la quale Sante e gli altri della banda verranno arrestati, quindi non indaga assolutamente sulle cose che Notarnicola racconta nel suo libro L'evasione impossibile. Punta ad essere più un film d'azione, con Cavallero che appare quasi come uno psicopatico che è introdotto dalle riflessioni di un commissario che racconta come la malavita sia cambiata e sia diventata molto più violenta. Insomma, un film che non vale la pena di vedere, soprattutto se si vuole conoscere la storia di Santeno Tarnicola e dei suoi compagni, fuori e all'interno del carcere. E ora ascoltiamoci un altro pezzo, anche questo dedicato a Santeno Tarnicola, Bandito senza nome, del gruppo musicale La Gang. Un tempo fu un bandito senza tempo, uccise un presidente, né per gli altri 100. Forse fu a 20 anni, o forse 2 di meno, era con Gaetano Bresci, sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7, 3-7 con il morto, il terzo era un gendarme, il quarto re, al fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare, c'erano tante bande, quante banche da rapinare. Forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Catturare alla catena di montaggio. Quel tempo chi lo ricorda, lo Stato aveva mal di cuore. Così è Renato Curcio, chiese in prestito nuove parole. Con quelle parti all'assalto, di nuovi mulini a vento, incontrò anche un sorriso lungo la strada che porta a Trento. Questo tempo con un'arma un po' speciale, una Magnum Spoon, spara canzoni che fanno male. Ora ha una nuova banda, è un fazzoletto rosso e nero, quando attacca e pone lo fa saltare il mondo intero. Ma un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava via col vento. Nel settembre 1997 Sant'Enotar Nicola rilascia un'intervista alla casa editrice Odradek, che ristampò il libro. Ne leggo alcuni stralci. Odradek. Il libro di allora descrive un altro mondo, un mondo perduto, fatto di comunità sociali in lotta che si presentano e si rappresentano con una identità sociale e politica chiara, con modelli di riferimento che valgono per tutti gli appartenenti a quel gruppo sociale, modelli in cui ci si può riconoscere in misura variabile, ma comunque sempre caratterizzanti. È nel tuo caso la comunità operaia di Torino degli anni 50 che si riconosce nel Partito Comunista. È una comunità dai confini ben determinati, con amici e nemici dal profilo nettissimo. Nel libro descrivi come si cresce al suo interno e anche la sua lenta decadenza, nel senso che descrivi come questa comunità man mano perde consistenza, coesione interna e quindi l'apertura di vie di fuga individuali o di piccolo gruppo che portano nel privato o, come nel vostro caso, a un tentativo di mettere in piedi un'attività politico-guerrigliera che però non arriva mai al momento dell'ingresso in campo politico. In un secondo momento, nel 68, si ricostituisce una comunità sociale rivoluzionaria, diversa dalla precedente, ma pur sempre una comunità comunista e rivoluzionaria. Tu sei passato, a tuo modo, prima da uomo libero all'interno della comunità degli anni 50 e 60, poi da prigioniero nelle conseguenze carcerarie del 68-69 e degli anni 70. Allora, a distanza di tanti decenni, sapresti indicare il meglio e il peggio delle due generazioni che hai vissuto? Sante, io inizierei dal fatto che questo è appunto un libro datato. È stato scritto in prigione nel 72, a cavallo di processi che come banda abbiamo dovuto affrontare. È stato scritto per coscienza, senza presunzione, ed è stato un libro comunque a suo tempo molto importante, perché è uscito, per caso, in qualche misura, nel momento di massima polemica tra il ceppo storico della sinistra, il riformismo e le forze sociali, i movimenti rivoluzionari che emergevano in quegli anni. Quindi so che è un libro che ha dato molto. Me ne accorgevo anche all'interno della prigione. Molti compagni rivoluzionari, al momento di conoscersi, nel momento delle discussioni tranquille, mi sottolineavano cosa aveva rappresentato quel libro per diversi compagni. Per alcuni anche una scelta abbastanza traumatica, partendo da questo o anche da altri libri. Odradek. Passiamo invece al lato bello. In tutti i racconti di carcere si resta in genere stupiti della quantità di sistemi ingegnosi che vengono escogitati per sopravvivere, comunicare, combattere. Pensi che sia un caso tutto speciale di aguzzamento dell'ingegno o è un elevamento delle capacità di fare che è proprio di chiunque si trovi in una situazione difficile da affrontare? Prendiamo l'esempio della banda Cavallero, in cui 3 o 4 operaiacci con un pizzico di formazione comunista di base, ma senza grandi istruttori militari, vanno per 8-9 anni a fare rapine senza che nessuno riesca nemmeno a capire chi sono. Siccome siamo in Italia e qui sono tanto amati i misteri, questa capacità di saper fare da soli, che nessuno vuole accettare visto che l'ha dovuta sperimentare sia fuori che dentro, come l'hai vissuta? Alla gente normale sembra sempre impossibile che si possa far qualcosa in carcere, e invece si riesce a fare tunnel, ci si organizza, è possibile addirittura avere delle armi. Tutta questa parte bella degli uomini che comunque riescono a fare ciò che credono giusto, raccontacela un attimo. Sante, mi dà estremamente fastidio quando, nelle mie relazioni quotidiane, qualcuno ti vede come uno che si è fatto 20 anni di galera, e allora ti guarda in un certo modo. A me mi sembra una cazzata, perché io ho verificato che in qualunque condizione, in qualunque situazione, qualunque persona normale ma motivata comunque riesce a far di tutto, non chiunque ovviamente. È chiaro che chi viene arrestato per una violenza carnale se la passi male in galera, o almeno spero che sia ancora così. Ride. Si riescono a trovare 1000 risorse. Noi le abbiamo passate queste cose. Scattano meccanismi che non conoscevi per autodifesa, ma anche per progettare. Chissà, forse il vantaggio è che hai dalla tua 24 ore al giorno in cui pensare a una sola cosa. Ride. Gli altri non ce l'hanno, perché l'agente di custodia ha la famiglia, ha le sue 8 ore, i suoi turni, la sua vita. Questa è la storia d'Italia. Negli ultimi 40 anni o 50 anni, usando l'intelligenza, l'esperienza, andando anche a rileggersi vecchie cose, facendosi raccontare da compagni più delle cose, si riusciva a fare delle cose che possono sembrare impensabili. Invece no, secondo me è normale. È stato normale per noi aver scavato buchi, aver pensato l'evasione, aver prodotto azione. non è solo una produzione di poesie, di libri, eccetera. Dietro tutto questo c'è stata la materialità delle cose che vivi giorno per giorno, attraverso le lotte, attraverso un lavoro collettivo. Sto pensando comunque a delle persone estremamente intelligenti, voglio dire, un Vallanzasca, altri ragazzi, mi viene in mente il genovese Mario Rossi o Paolo Dongo, ragazzi svegli, nati nelle borgate, cresciuti con quella malizia, con quella attenzione maniacale alle cose. Questi sono stati dei grandi maestri all'interno delle prigioni, anche per i compagni, e magari il compagno qualche volta, anche se aveva fatto delle azioni fuori, molto spesso era un po' sprovveduto rispetto ad una situazione cui era un tantino estranea. Era la vita che gli insegnava e li portava a saper fare quelle cose lì e te le trasmettevano. Però dovevi guadagnartela la trasmissione, perché anche lì vi sono dei meccanismi di compartimentazione, si diceva una volta, che implicano il guadagnarsi la fiducia. Quello che contava con loro, in realtà soprattutto nelle prigioni, è stata sempre e comunque una cosa: non lasciarli mai nella merda. Cioè assumerti le tue responsabilità e saper accettare tutte le conseguenze. È questo il rispetto che ci siamo guadagnati così, con molta chiarezza. E ora sentiamoci un altro pezzo dedicato a Sant'Ennotar Nicola, da Gianfranco Manfredi. Liberiamo. Liberiamo Notar Nicola, liberiamo Toio e Marini, liberiamo Franceschini, ogni bene Petra Krause, fuori tutti i prigionieri politici, liberiamo il compagno Costa, rubava quadri, davvero artista. Liberiamo Mimmo Zinca, da chi ha chiuso il mondo in banca, fuori tutti i prigionieri politici. Liberiamo chi sta alla Neuro, chi è rinchiuso nei riformatori, liberiamo i militari giudicati disertori, fuori tutti i prigionieri politici, liberiamo quelli della scala B che si affidano che rinchiudono la vita nella coppia, nella famiglia, sono tutti prigionieri politici. Liberiamo chi è costretto ad andare a scuola, liberiamo chi va al lavoro, cancelliamo dalla terra il lavoro salariato, fuori tutti i prigionieri politici. Oh! amici. Liberiamo il nostro corpo, liberiamo l'immaginazione, liberiamo la ragione, il canto, la creatività. Siamo tutti prigionieri politici, ma siamo tutti prigionieri politici. Siamo tutti prigionieri politici. La contraddizione che la banda Cavallero portò allo scoperto è quella tra anima rivoluzionaria del popolo comunista, del cosiddetto popolo comunista, degli anni del boom economico italiano e la strategia politica del PC che ha accettato le condizioni stabilite negli accordi di Yalta in cui l'Italia viene inserita in maniera irreversibile nell'area occidentale capitalistica. Notar Nicola, Cavallero e l'ex partigiano Danilo Crepaldi e la loro storia sono una manifestazione di quell'anima rivoluzionaria che sopravvive nonostante Togliatti e i dirigenti e i quadri del PC. Alcuni gruppi extraparlamentari, soprattutto Lotta Continua, riescono a riconoscere in questa banda dei compagni di strada, tra virgolette, provenienti da una generazione che era stata troppo giovane per fare la resistenza e troppo vecchia per entrare a far parte dei movimenti degli anni 70. Quello di Sante Notar Nicola fu uno dei 13 nomi indicati dalle Brigate Rosse per lo scambio di prigionieri in occasione del sequestro di Aldo Moro. Poi è rimasto nelle carceri speciali fino al 1988, quando dopo 21 anni di prigionia tra le più dure è stato messo in semilibertà. Per 8 anni ha lavorato fuori dal carcere di giorno per farvi rientro la notte. Sante non ha fatto parte di nessuna organizzazione di sinistra degli anni 70. È stato nel movimento delle carceri, è stato un comunista come cane sciolto. Non ha dovuto quindi difendere una particolare linea politica del passato, né un gruppo organizzato, ma solo la sua coerenza rivoluzionaria. Concludiamo con i versi di Sante Notar Nicola, poeta. Infine vollero sbarrare il cielo, non ci riuscirono del tutto. Altissimi guardiamo i gabbiani che volano. E ora un ultimo pezzo, sempre dedicato a Sante, e fatto dagli Onda Rossa Posse. E con questo concludiamo la nostra riflessione su questo fantastico libro. All'improvviso rilassato mentre spiega quel PM, spiega al giudice la storia. È arrestato. Arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra. È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire, uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio. Troppo! Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo! Troppo da difendere!